Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutti e buon venerdì 27 agosto da Antonella Cortese, in particolare a tutte le persone ristrette nelle case circondariali dell'Emilia Romagna e al carcere della Dozza, ovviamente. E bentrovati su Liberi Dentro Eduradio TV, in onda su Radio Città Fuggico, Lepida TV e Teletricolore, il programma che fa da ponte tra carcere e città. È qui con me Ignazio De Francesco, volontario AVOC. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì, diciamo anche salam aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sappiamo che abbiamo tante persone di fede islamica che ci seguono, tra poco ci sarà la rubrica dedicata a loro con l'imam e con la Rosanna Mariam Sirignano, però intanto anche noi vi diamo il benvenuto a questa trasmissione. Benvenuti a tutti. Allora, Ignazio, senti, mi sa che tu oggi vuoi parlare di una lettera dal carcere di Bologna, giusto? Sì, una lettera che è stata raccolta da Nevale, la redazione di Nevale La Pena, che accende i riflettori su una dimensione molto particolare della vita in detenzione, la dimensione religiosa. E chi la scrive? Possiamo dire il suo nome perché la lettera è pubblicata. Quindi ha consentito che si dicesse anche il suo nome. Si tratta di Sergio Uccero, che se ci ascolta in questo momento lo salutiamo molto. E scrive benissimo Sergio, con grande profondità su un tema, in un modo che può, secondo me, può essere ascoltato sia da persone credenti, ma anche da non credenti. Sentite cosa dice, no? Sulla religiosità in carcere. Domenica mattina i preparativi fervono, barba, un controllo al capello, i vestiti più belli e una goccia di profumo. L'appuntamento è topico, quanto di sincero c'è in quelle poche decine di minuti che intercorrono tra l'inizio e la fine della messa. Difficile la risposta. Eppure le nostre celle sono tappezzate di immagini devote, Padre Pio sugli scudi, di rosari e simboli religiosi vari che dovrebbero testimoniare una sensibilità ritrovata verso il sacro. Forse l'aspra materialità della nostra condizione spinge alla ricerca di un senso che impedisca il naufragio definitivo di chi, qualunque sia il reato commesso, cerca di raggiungere un approdo che lo mantenga a galla. Quindi vedete la religiosità, scrive Sergio Uccero, come risorsa per vivere e sopravvivere. Un poco l'hai già anticipato, ma perché ci si accosta alla religione dietro le sbarre, secondo Sergio? Allora, leggiamo sempre quello che scrive lui: per tradizione, per necessità identitaria, per non sentirsi fuori dal gruppo. Se questo fosse un sentimento necessario, semplicemente umano, un sentimento che coinvolge anche chi, per missione evangelica o laica, continua con testarda determinazione a percorrere i corridoi delle sezioni per portare una testimonianza antica, ma in un mondo di esclusi, di ultimi fra gli ultimi, quanto mai contemporanea. C'è un tempo per le domande e un tempo per l'azione, ma è sempre tempo di speranza. E in definitiva ognuno sa quanto di autentico c'è in sé, basta questo. Quindi è un approccio dialogico e dialettico. Lui dice, Sergio, sì, se voi dite che uno si aggrappa alla religione per non affondare una ciambella di salvataggio, va bene, ha bisogno di quella ciambella. E tuttavia l'esperienza religiosa non può essere mai razionalizzata fino in fondo. C'è un mistero nelle religioni che non può essere mai sciolto. E quindi dietro quella porta sapremo un giorno se c'è qualcuno oppure no. Ignazio, ci sono dei credenti manifesti e dei credenti incognito. Che cosa dire su di loro? Sì, è vero, ci sono persone che partecipano ai riti, che vanno a messa, che vanno in moschea, nella saletta usata per la preghiera islamica, che portano il rosario al collo, che fanno anche opera di proselitismo. E poi però ci sono tante altre persone che lo ritengono una cosa molto intima e che la coltivano nel cuore, sempre così, tra incertezza e certezza, forse non serve a niente, forse non c'è niente, forse non esiste niente, e tuttavia nel loro cuore qualcosa si agita per dire che questa cosa che noi chiamiamo religione e spiritualità appartiene profondamente al nostro DNA di essere umani, sia che lo manifestiamo in riti, in adesioni evidenti, sia che lo teniamo nascosto per noi. Benissimo, a questo punto direi di lanciare un brano. Che cosa ci fai sentire? Ma per rimanere un po' in tema, proporrei un pezzo dedicato in particolare a Sergio Uccero, che immagino lo conosca benissimo, De André, I 10 comandamenti. Allora, ascoltiamolo. Il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato, ma io senza legge rubai in nome mio. E rieccoci, lasciamo il bravissimo Fabrizio De André con i 10 comandamenti per parlare, come ormai di abitudine, di un animale, per il nostro venerdì animalesco. Però oggi parliamo in realtà di intelligenza animale, perché l'intelligenza non è una prerogativa solo umana. Infatti una ricerca neozelandese di qualche anno fa ha posto di fronte a dei piccioni un problema in apparenza molto umano. Oltre a contare e quindi stabilire che, per esempio, dopo il 3 viene il 4, gli animali dovevano anche imparare l'ordinalità, cioè dovevano essere in grado di mettere in ordine due gruppi di simboli con una numerosità diversa, anche se il resto dell'esperimento non era stato fatto proprio sui numeri. E comunque non ve l'immaginate, ma i piccioni sono stati in grado di capire che 4 era meno di 7 e 8 più di 6. Incredibile. E in che cosa assomigliano, pensando sempre all'intelligenza? Intanto l'essere umano non è l'unico nemmeno a saper utilizzare gli strumenti, gli utensili. E oltre ai nostri cugini primati, che sono stati ampiamente studiati, per esempio i corvi della Nuova Caledonia, non solo usano i bastoncini modificati per procurarsi cibo, quindi insetti e larve, ma sembrano anche essere in grado di combinare elementi diversi per ottenere uno strumento funzionale, come ha suggerito uno studio pubblicato su Scientific Reports. E anche gli elefanti asiatici modificano i rami caduti per usarli come scacciamosche, mentre alcune popolazioni di delfino si coprono il rostro con spugne per predare sul fondo marino in incognito, e le lontre di mare usano sassi per rompere le conchiglie dei molluschi. E le nostre capacità umane quindi non sono esclusive, nemmeno quelle che riguardano la salute e la sicurezza. Penso un po' che molti degli accorgimenti di sicurezza che stiamo mettendo in atto durante l'attuale pandemia da Covid-19 prendono spunto dalle strategie difensive adottate dalle altre specie. Per esempio, pratiche come il distanziamento sociale, la quarantena e la disinfezione degli ambienti sono presenti da sempre nel mondo animale. Come racconta l'etologo Christian Lenzi nel suo libro I segreti dell'immunità, tutto ciò che possiamo imparare dagli animali su igiene e controllo delle infezioni. I casi più interessanti però sono quelli degli insetti sociali. Non avevo mai pensato agli animali in questi termini. Infatti, Ignazio, pensa che le api domestiche, per esempio, sono maestre dell'igiene sia domestica, cioè all'interno dell'alveare, che individuale. La loro struttura sociale permette di proteggere dalle infezioni gli individui più fragili, come per esempio la regina e le larve, riducendo le interazioni tra i membri della colonia in caso di presenza di virus o parassiti. Inoltre usano abilmente la propoli, veramente la usiamo anche noi in effetti, che è una sostanza sintetizzata dalle api a partire dalla resina, che svolge una duplice funzione, serve sia come cemento disinfettante per sigillare le celle delle alveari, ma viene anche impiegata per ridurre i contagi tra i conspecifici. Tra gli scimpanzé poi la presenza di un individuo infetto all'interno del gruppo può mettere in rischio la salute di tutti gli altri, e quindi gli scimpanzé costringono gli individui malati a una sorta di quarantena. La prima ad accorgersi di tutto ciò è stata la famosa primatologa britannica Jane Goodall, una delle massime esperte degli scimpanzé in tutto il mondo, e durante i suoi studi in Africa osservò che i membri del gruppo tendevano ad allontanare, anche con una certa violenza, ma mai col contatto fisico, gli individui che presentavano sintomi di malattia infettiva e che quindi potevano contagiare i loro compagni. Questi individui, una volta superato il periodo di allontanamento e dopo essersi ristabiliti fisicamente, venivano riammessi nel gruppo. Bene, allora forse possiamo fermarci a questo punto per proporre un brano musicale. Sì, io voglio continuare a dedicare queste canzoni che stiamo in effetti scegliendo tutta la settimana a chi ci ha sostenuto, e addirittura oggi c'è una richiesta, la richiesta di una canzone che è Un senso di Vasco Rossi, fatta da Angelo De Giovanna, a cui ovviamente la dedichiamo, e la dedichiamo anche a Denise Amerini, Gidi, Sara Fallini e i ragazzi del Fronte Comune. Ascoltate Un senso di Vasco Rossi e vi ringraziamo con questa canzone per l'aiuto che ci avete dato e per averci permesso con le vostre donazioni di essere ancora qui con voi. Ascoltiamola. Anche se questa storia un senso lo ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia. Anche se questa voglia un senso non ce l'ha, sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno. Situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. La la la la la la. E rieccoci dopo aver ascoltato Un senso di Vasco Rossi con Caterina Bombarda che intervista Franco Milone. A te la parola, Caterina. Sì, eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Anche oggi l'ospite del giorno con noi per tutta la settimana è Franco Milone. Buongiorno Franco, ciao. Ciao Caterina, ciao a tutti. E in collegamento dal Milano, dal centro Asteria. Abbiamo toccato vari aspetti della tua vita, dalla detenzione, il carcere per l'appunto, ma parliamo oggi della tua vita dopo, o comunque come è cambiata anche grazie al teatro, che è stata la tua grande rivoluzione di vita. Come mai? Certo. Beh, come mai? Perché alla fine, appunto, con la legge Gozzini c'erano tante... corsi da poter frequentare e io ho voluto frequentare il corso di teatro e ho scoperto che man mano che io ascoltavo l'insegnante da allora, che era, non era un insegnante ma lei era proprio una donna di teatro, Donatella Massimilla, faccio il nome perché devo anche a lei tanto, e a un certo momento, litigando, diciamo, perché io poi mi sono accorto che non ero tanto d'accordo su quella che diceva, però mi stava facendo avvicinare ad amare il teatro. E teatro, io allora a un certo momento mi sono talmente applicato che venne anche il maestro Giorgio Streller al penale di Milano, io ero al penale, ero 8 anni già lì. A un certo momento il maestro Streller venne a trovarci, io gli feci un frammento a modo mio della Tempesta di William Shakespeare. Pensavo che non mi guardasse, invece appena finito, dura qualche minuto mio frammento, beh, 200 errori mi trovò. Però mi disse, che c'erano anche i ragazzi del piccolo teatro, gli allievi, e le ha detto, io a voi vi potrò insegnare il teatro, meno quello che lui ha dentro. E si riferiva a me, dove mi ha invitato ad andare al piccolo teatro. Beh, devo dirti la verità, mi sono sentito orgoglioso al massimo. Ho detto, ma qui, caspita. Però io gli dissi, maestro, sono un cane sciolto. Ma no, tu devi venire da me. È tornato pure indietro. E comunque, purtroppo, poi lui scomparso a Lugano dopo 2 anni. Beh. Ma e poi mi piaceva come lui intendeva il teatro. Io sono come lui, è un servizio pubblico, lui diceva, perché anche in un libro che ha scritto la Cristina Battoletti, l'ultimo libro, Il ragazzo di Trieste, rivolto, dove dice il teatro è come l'acqua, il gas e l'elettricità, serve all'uomo. Gli uomini non si mettono insieme per salvarsi l'uno con l'altro. Ecco il teatro, cos'è? Che si mettono insieme per salvarsi l'uno con l'altro. Io, quando ero sul palco, mi sentivo che dovevo salvare il pubblico, non io, perché io gli dicevo al pubblico, vivetela questa vita, perché la vita è meravigliosa. E io avevo già sofferto, fatto soffrire anche, non tanto io, ma ho fatto soffrire persone che mi amavano, che mi volevano bene. E questo è il teatro della vita, il teatro dove tu ce l'hai dentro. E io ho scritto pure una drammaturgia, la mia esperienza di Semilibero, e l'ho chiamata L'opera incompiuta, e l'ho data anche al Teatro Fedele, dove insomma ho raccontato fatti e misfatti, perché non è facile neanche fare il detenuto semilibro uguale semi uomini. Perché vieni anche minacciato, trattato, ma non perché sei per forza, no, perché è il sistema in questo modo. Non è che c'è l'uomo cattivo o il detenuto, ma perché chiaramente c'è sempre qualcosa che non va nelle forme di libertà, perché in fondo non siamo mai liberi. Franco, mi ha colpito quando parlavi col tuo pubblico e dicevi salvate, tenete a questa vita. E allora io ti chiedo, siccome è l'ultima puntata con te, se il tuo pubblico fosse un pubblico di persone detenute in questo momento, che cosa diresti loro? Ah, io vorrei, una cosa che ho scritto io, vorrei dedicare il primo sogno. Non era questa vita il primo sogno, non era questa donna il primo sogno, non era questo amico il primo sogno, per tutti un altro amore al primo sogno. Quanti sogni come sogno, e che sogni galeotti, giusti, aperti, spazianti, falsi, ipocriti, meschini. Ma non era questa vita il primo sogno. E come sogno, una triste realtà, disperazione, indifferenza, solitudine. Ma non era questa vita il primo sogno. Per tutti un grande amore, quello del primo sogno. Sono commossa, è bellissimo, anche perché, e non me l'aspettavo, questa intervista con te è una parte inaspettata questa, quindi hai colpito anche scusa, però alla fine è bellissimo. Sono un cavallo selvaggio, dai. Franco, allora, io invito, e questa è la parte... Cose da dire, ma sono un po', insomma, così, dai, sono come uno schiacciasassi, dai. E un consiglio anche sul dar valore alle parole che dici tu, mi hai detto più volte, io ho imparato a dar valore alle parole, ma come si fa? Guarda, intanto imparare all'ascolto, quello che io non ho fatto mai, perché se io ascoltavo alcune persone come mio padre, che era un uomo che ha sempre lavorato minestra calda a tavola, l'ha sempre portata, e mia mamma, pezzo in culo ma ben lavate di onestà e d'amore. Queste persone io le ho fatte solo soffrire, non le ho ascoltate. Quindi, prima di tutto è l'ascolto, ma dare importanza alla parola, perché quando una persona ti dice che è amico, tu lo devi sentire dentro. Quando una persona ti dà una mano, tu questa mano non la devi tradire. Quando tu prometti qualche cosa, tu sappi che di guardare bene la persona che tu gli prometti, perché magari crede in te. Ecco perché è importante. Non dico che la menzogna, non è che bisogna essere per forza sinceri, a volte la bugia è necessaria, a volte per il bene è necessaria una bugia, ma è un conto, ecco che lì allora l'importante di ciò che dici e ciò che tu dai quando ti parlano. Alle loro parole, alle parole hanno le vibrazioni, il cuore, è tutto. Se tu dai importanza alla parola diventi più ricco, ma non solo a livello, perché io non ho studiato, io sono un autodidatta e sono riuscito ad amare, io mi emoziono quando leggo qualcosa, qualcuno ha scritto, mi emoziono come un bambino. E questa emozione è perché do valore, sento il suono della parola, sento che mi entra dentro. E se noi viviamo con questa sensazione, noi viviamo meglio. Non diamo più solo ai soldi, non diamo più valore solo alle cose materiali. Cominciamo a dar valore a una mano tesa. Franco, grazie, proprio perché hai parlato di dar valore alla parola e anche tutto questo messaggio di fiducia bellissimo che ti hai trasmesso, lanciamo l'ultima canzone di oggi prima dei saluti, Battisti, dice Battisti, pensieri e parole, e io, ma anche un noi collettivo, ti ringraziamo tanto per essere stato su Liberi Dentro di Radio. Grazie a voi, tanto. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia ormai, che ne stava tutta quanta e sfida il tempo e si dice davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara, vai o torni con me davanti a te. conosci me. Che ne sai di un viaggio in quel che darei? Che ne sai di un amore perché vita? Gli altri ti sparati che mi hanno detto bugiarda finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e per quel che diceva chissà perché chissà sì, adesso è vero, lo sai. E anche oggi la prima parte della nostra trasmissione termina qui. In realtà termina anche la settimana di Liberi Dentro, ma non cambiate canale, perché noi continuiamo ad esserci anche durante il fine settimana. Adesso seguirà una rubrica molto importante che è Islam, religione e civiltà, e poi anche Voci dalla scuola. Mentre vi annuncio che sabato ci saranno i dialoghi sulla cittadinanza con l'intervista a Luca De Cembrotto. Poi ci sarà, oggi parliamo di buddismo, e poi la rubrica Libri dentro con l'intervista a Fatima, e infine il Teatro del Fratello. Domenica, infine, ci sarà il CPA di Bologna con 20 di parole e la rubrica Chef al fornelletto di Fomal. Un caro saluto da tutti noi, da Antonella Cortese, da Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e il nostro tecnico Enea Flacco, e buon fine settimana a tutti. Un saluto. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.